Ciao, sono Mirko Maestri e purtroppo siamo qua a iniziare questa puntata podcast di Geronimo, ma cosa facciamo? Ci sbottoneremo. Affermazione nella massima categoria, ha scelto uno dei traguardi più prestigiosi di questo Giro d'Italia, quello del Passo della Brocon. È un'impresa al comando per tutta la giornata. Passo del Brocon, è arrivato il momento di farvi sentire e di accogliere l'arrivo vittorioso di Georg Steinhauser. Georg Steinhauser wins stage 17 of the Giro d'Italia, his first ever professional victory. Amiche e amici del ciclismo, del Giro d'Italia, del riposo, perché siamo sempre amici del riposo, riposo che si avvicina all'eterno riposo di questo giro, mancano ancora ormai pochi giorni, noi siamo pronti a riposare, ma prima siamo pronti a cenare, prima ancora a parlare di questa giornata dolomitica, in diretta dalla casetta Margherita, delle casette Margherita di Fiera di Primiero, che non so se è una profezia per la pizza, stasera ci tocca la pizza, mi sa che è un po' che non la mangiamo e l'ultima volta non l'ho nemmeno digerita. Siamo qui a Geronimo, il podcast di Al Vento dedicato al Giro d'Italia 2024 con l'amorevole e meccanico supporto di Shimano. Io sono Kautz, oltre a me ci sono il re della statistica, Michele Florindo Primiero Fiero Calisto Pelacci. Che oggi è un po' triste, eh? È un po' triste. In come triste? Sai perché? C'era una meravigliosa, ruspante, bella plasticosa di quelle a quattro seggiovie sul Passo del Brocon, ma era ferma. Capita, siamo fuori stagione. No, però a me sembra strano che questa tua tristezza per la seggiovia ferma superi la gioia per essere a casa. Abbiamo scoperto che oggi stiamo registrando da una proprietà della famiglia. Aiutami a capire chi è. Giacomel. E chi sarebbe? Tommaso Giacomel è un forte biatleta italiano, diciamo una delle grandi speranze, proprio del biathlon in generale, uno dei giovani più in vista, più promettenti. E quindi ci ha accolti questa sera arrivando qui sua mamma. E dunque sì, ci sono giovani promettenti e c'è Michele Florindo Pelacci, e l'altra voce l'avete già sentita. Sì, mi sono l'uomo quasi l'uomo che ha fatto dell'acrostico uno stile di vita. addirittura. L'uomo che sa insegnare a nuotare alle foche, Leonardo Piccione. Ciao a tutti, eccomi qua. Io oggi voglio iniziare in un modo diverso dal solito, perché oggi ha vinto Georg Steinhauser e io sono sul sito della Steinhauser Metal Technic, che è l'azienda di famiglia, e vi voglio dire che il principio guida della Steinhauser Metal Technic è, da un lato, che il lavoro di Steinhauser è sempre di altissima qualità, e in secondo luogo dimostra che con i nostri prodotti e servizi creiamo valore reale per i nostri clienti. Clienti sia industriali che privati, e adesso mi rivolgo a voi perché per i clienti privati la Steinhauser Metal Technic dice: realizzate con noi i vostri sogni di vita in metallo. Quindi volevo chiedervi se voi avete un sogno di vita in metallo da realizzare grazie alla Steinhauser Metal Technic. Io non ho mai visto un concerto degli At The Gates ed è una cosa che mi manca molto del metal, per cui non so se la Steinhauser Metal Technic, che tra l'altro questa marchetta spero che non gliela stiamo facendo gratuitamente, per cui in cambio vuole mandarmi un biglietto per un concerto degli At The Gates, sarei contento. Se io volessi avere una volontà di ferro, vale lo stesso? Volontà di ferro, sogno in metallo, lo accettiamo. Spero che accettiate il mio acrostico, perché oggi era Passo del Brocon, lungo anche oggi. Michele mi ha detto: la doppia S di passo secondo me ti metterà in difficoltà. Vediamo se ti piace come l'ho risolta. Dunque, prima adoperava semilavorati siderurgici. Oggi doma efficacemente la bicicletta, ricamando ogni curva, ogni nanometro. Bene, benissimo, anche quest'oggi, anche il Passo del Brocon è stato ispiratorio di un acrostico degno di nota. Ma poi direi che è un grande ritorno della siderurgia in questo podcast. C'era già stata? Sì, beh, io comunque spero che torni più spesso. No, abbiamo intervistato Georg Steinhauser quando ancora non era famoso, ci ha raccontato che lui ha anche lavorato nell'azienda di famiglia, ci ha detto delle cose belle, no? Vi ricordate che grazie al lavoro tra gli operai ha capito quanto sia un privilegio poi poter fare dello sport come il ciclismo il proprio mestiere, quindi insomma. Quindi, come dicono gli operai di una famosa serie televisiva, e varrà per questa serata di Steinhauser, we work hard, but we party hard. Esatto, e stasera si festeggerà all'Education First, ma prima tocca con le sillabe d'amore di Michele Pelacci ripercorrere quello che è successo oggi nella tappa numero 17 del Giro d'Italia. Si comincia con delle grandi planate in Val Gardena, perché Passo Sella e Cima Coppi. L'ambito traguardo è conquistato da Giulio Pellizzari, al fotofinish su Nairo Quintana. Il giovane della VF Group Bardiani vince anche il GPM di Passerolle e conquista 90 punti per la maglia azzurra, mentre attorno a lui il drappello dei fuggitivi si è rimpolpato. Ne fanno parte Frigo, La Philippe, Steinhauser, Quintana appunto, Conci, Caruso, Attila Walter e Gabriel Zabier, tra gli altri. Proprio quando la fuga sembra poter arrivare comodamente, la DSM si mette a tirare in gruppo. Similmente a quanto fatto dalla Movistar ieri, il gruppo si mangia un po' la fuga e un timido attacco di Bardet viene controllato da Pogacar. In vista del GPM di Passo Gobbera, Gabriel Zabier scatta di nuovo, inseguito di nuovo da Steinhauser. Il tedesco vince la volata del primo passaggio sul Brocron, mentre dietro alla DSM succedono Sudal Quickstep prima e Ineos poi. Narvaez e Hanesman fanno il ritmo. Il primo ad attaccare è Dani Martinez sulla salita finale, ma Pogacar stacca di nuovo tutti gli uomini di classifica. C'entra intanto la prima vittoria da pro, Georg Steinhauser. Eh sì, è andata proprio così. Passo subito all'ordine d'arrivo, direi. Vadi, vadi. Vado. Allora, ha vinto Georg Steinhauser della Education First a 1.24 Tadej Pogacar, che, come ha detto Michele, ha staccato ancora gli uomini di classifica, ma oggi non ha staccato l'ultimo fuggitivo rimasto. Terzo ha regolato il gruppetto degli altri uomini di classifica Antonio Tiberi, che ha preceduto Geraint Thomas, Dani Martinez, Einer Rubio e Romain Bardet settimo. Ha perso qualcosina, forse un po' a sorpresa, Timen Arensman oggi, che è arrivato ottavo a 1.55 da Steinhauser, quindi ha perso 13 secondi dagli altri uomini di classifica, compreso il suo capitano Geraint Thomas. Arensman che è arrivato insieme a Jan Hirt nono e Rafał Majka che è arrivato decimo. Vi segnalo che O'Connor oggi non è andato bene, ha perso 40 secondi dal gruppo Thomas Martinez. E anche Zana ha perso 45 secondi, insomma non è andato alla deriva, ha perso ancora qualcosina, sempre dal gruppo Martinez-Thomas. Per effetto di tutto questo, la classifica generale è cambiata poco. Forse dal fioraio avete sentito che Tadej Pogacar è in maglia rosa ed è seguito a 7 minuti e 42, aumenta di giorno in giorno il distacco, da Daniel Felipe Martinez. Terzo è sempre Geraint Thomas a 8.04. Il quarto, Ben O'Connor, oggi ha 9 minuti e 47 di ritardo da Pogacar. Dal quinto in poi hanno tutti più di 10 minuti di ritardo, quindi non vi dico il distacco al secondo, nel senso non vi dico precisamente il distacco. Quinto è Tiberi, sesto Arensman, settimo Bardet. Si sono scambiati ottavo e nono posto Rubio e Zana, quindi stasera Rubio è ottavo e Zana è nono. Chiude la top ten Jan Hirt, che, la cui squadra oggi abbiamo visto, come ha detto Michele prima, a un certo punto protagonista davanti al gruppo, chissà, forse per... C'erano un botto di tifosi di Jan Hirt. Ah, forse per quello, allora. Forse per quello. E visto che abbiamo citato la Cima Coppi, volevo dare giusto un attimo un aggiornamento sulle altre classifiche che non ci caghiamo mai di questo Giro d'Italia. Facciamolo giusto un aggiornamento. Detto è la classifica principale di questo giro, che continua a essere guidata da Filippo Fiorelli, leader dell'Intergiro con 47 punti davanti a Giuliano Alaphilippe. Dicevo la Cima Coppi perché Pellizzari ha fatto un bel balzo e ora è secondo nella classifica degli scalatori. Anche Quintana sale, Steinhauser ha guadagnato 7 posizioni, leader è Pogacar, nei giovani lo sapete è Tiberi, ma c'è una bella lotta con Arensman. La classifica punti è stradominata da Milan, ma Groves è secondo e terzo oggi Giuliano Alaphilippe ha superato e sbattuto giù dal podio Tadej Pogacar, quindi sintesi anche di questa tappa del giro, delusione Pogacar. Giornataccia per Tadej Pogacar, vediamo se la pensa così anche Marta, la nostra Marta Bacigalupo, che nonostante non sia più fisicamente con noi nel senso qui al giro, perché sta benissimo a casa sua a Genova, ci ha ma starebbe meglio qui con noi al giro. Quello è sicuro. Ha estratto anche oggi il suo tarocco, quindi passiamo alla rubrica della giromanzia che ci introduce un tema o alcuni temi della giornata di oggi che poi analizziamo insieme. Giromanzia, giromanzia, quasi meglio che in funivia, oggi vi leggo dalla scrivania. Infatti, cari amici dei tarocchi da sport e dello smart working, la carta dell'arcano, sono rimaste poche, devono uscirne ancora poche. L'arcano maggiore che è uscito oggi per raccontarci il tema della giornata è il carro. Questa carta ha proprio il significato di successo, determinazione, azione e abnegazione, e sono proprio queste le parole chiave che hanno portato il nostro Georg Steinhauser a riprovarci dopo il terzo posto al Mottolino nella tappa regina. Ci aveva già provato stamattina e poi ha reagito una volta che era stato ripreso, riprovandoci entrando nella seconda fuga. Ecco perché questa carta corrisponde strutturalmente all'unione di altri quattro arcani ed è quindi perfetta per esprimere la chiusura del cerchio. È la carta della determinazione incrollabile, che ovviamente è quella a cui ha dovuto dare fondo Georg negli ultimi chilometri mentre si liberava e alleggeriva di qualsiasi accessorio possibile e immaginabile. Questa carta, però, proprio guardandola, raffigura un carro che guida verso il successo, un giovane principe che veste un'armatura a rivetti e in questo caso direi che è assolutamente stata forgiata dalla Steinhauser Metal Technics. Questa carta racconta le difficoltà della vita che vengono affrontate e per questo l'arcano si basa su una strategia di attesa calma e ponderata che porta al trionfo. Infatti addirittura abbiamo sentito che Georg è stato così lucido da decidere di correre senza il power meter per essere più leggero e fidarsi solo del suo istinto. Quindi questa carta è estremamente positiva e annuncia fortuna e nuove opportunità, e sono quelle che auguriamo al buon Georg Steinhauser, che è ormai un po' un amico di Geronimo. Anche questa volta però i tarocchi a posteriori non hanno dimenticato il rovescio della medaglia, o meglio della carta. Infatti la carta al contrario ci racconta un altro versante della giornata: gli eccessi di azione e il rischio di iperattività poco fruttuosa, il rischio di perdere il controllo e sprecare tempo ed energia. Esattamente quella energia sprecata dalla DSM di oggi, travestita da Movistar. È invece necessario definire con chiarezza gli obiettivi per raggiungere in modo costruttivo e duraturo il successo. Dalla giromanzia è tutto. Ringraziamo Marta di questo suo contributo che dimostra che è lì a pensare a noi, ma soprattutto a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, anche in remoto, anche sul posto di lavoro. Giustamente Marta è lì a lavorare, viene pagata da un datore di lavoro, ma lavora per noi, che è il nostro obiettivo principale. Cosa da ricordarsi dopo aver letto questo tarocco? Mai mettere Steinhauser davanti ai buoi. Vero, confermiamo questa cosa. Allora direi di cominciare dalla seconda parte dell'analisi della giromanzia di Marta, quindi dalla DSM, che oggi abbiamo visto molto attiva. Bardet, secondo me, ha interpretato un po' oggi la parte di Jep Gambardella delle fughe. Ti ricordi Jep Gambardella, Michele? Sai che quasi? Quasi. Ricordami. Non voleva solo partecipare alle fughe, voleva avere il potere di farle fallire, perché come ha fatto la Movistar ieri, oggi la DSM ha fatto fallire il primo tentativo di fuga perché Bardet voleva attaccare. E poi però ha attaccato in un punto, come ha detto lui, poco propizio, e j'avais Pogacar dans la rue, il ne peut pas s'empêcher de faire la course. Non può trattenersi dal fare la corsa, perché appunto Pogacar ha seguito Bardet, e quindi anche questo tentativo piccolo di Bardet di attaccare oggi è fallito, e la fuga però è ripartita con gli stessi uomini. Quindi un trionfo della caparbietà, dei testardi che sono stati oggi soprattutto Georg Steinhauser, e ancora prima di lui, perché è stato il primo a lanciare la seconda fuga, il secondo attacco in salita, Emmanuel Gebrezabier della Lidl. Un aspetto tecnico che è, diciamo, un po' inverso da ieri, quindi possiamo vedere la tappa di oggi come il rovescio della medaglia di quello di ieri, è il fatto che sull'ultima salita, alla base dell'ultima salita, la UAE ha lasciato fare. ha lasciato che fosse la Ineos a incaricarsi del lavoro. A un certo punto ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti: c'è Ben Swift che sta tirando una salita, forse era Connor Swift, chissà. Sono esperto dei fratelli Perpentro, non degli Swift, te la perdoniamo. Anche Narvaez dopo ha fatto a lungo il ritmo nel gruppo Maglia Rosa. Dicessi che anche Narvaez è parente degli Swift. No, anche Narvaez ha fatto un ritmo non impossibile, diciamo così, nel gruppo Maglia Rosa, che ha permesso ai due attaccanti e all'attaccante superstite poi di arrivare. Scelta di Pogacar oggi di risparmiare i suoi uomini, addirittura forse voleva lanciare Maika all'assalto della tappa, ma Maika forse non aveva oggi le energie per provare a vincere in prima persona questo arrivo. Sì, poi è una scelta abbastanza bizzarra lanciare Maika all'assalto della tappa e prima però far prendere 3 minuti al fuggitivo. Diciamo che è un modo per assaltare la tappa, tutto da discutere. La UAE ha deciso di riposarsi oggi in qualche modo, per quanto ci si possa riposare andando in bicicletta sulle montagne, cosa che Pelacci fa nei giorni di riposo, ma non mi risulta che riposi. No, sai chi? Ho visto arrivando particolarmente così, un po' affiatato, con, diciamo, starnutendo, tossendo. Affiatato, proprio la definizione di tutto questo. Che dire. Ma che chi dire. Era? Domenico Pozzovivo. Ah. Volevo parlartene per un grande cambio di classifica, certo, che sta avvenendo in questo Giro d'Italia, ed è la rimonta di Simon Gecke, a proposito di tedeschi. Perché da 60esimo... pensa che ha sempre guadagnato posizioni in classifica generale. A proposito del tedesco Pozzovivo, sì, questo esatto, discorso. È un bellissimo gancio, vero? Da 60esimo a Torino, ora è 14esimo, superando appunto Pozzovivo. Volevo dirti questa traduzione. Cos'altro? Sei pieno di cose interessanti da dire oggi. Gecke, hai visto? Perché sta avendo un dialogo giornaliero con una rivista tedesca su Twitter. E oggi, per commentare appunto, torniamo alla DSM. Gecke ha detto, secondo il traduttore automatico di Twitter, le squadre che non hanno ancora vinto una tappa preferiscono provarci con il piede di porco. Forse il DSM ha provato, no, non so con quale attrezzo, a scardinare la tappa di oggi. Non ce l'hanno fatta, mi viene da dire. Non ce l'hanno fatta, ma come abbiamo detto ieri, per la Movistar ci hanno provato, che altro... Forse era un piede di porco della Steinhauser Metal Mechanics, che era un sogno in metallo. Gli ha dato fallato apposta. Un sogno in metallo non realizzato. Ma allora, direi, rimanendo in tema di tedeschi e di metallo, parliamo un attimo di Georg Steinhauser, che in conferenza stampa abbiamo visto oggi, ovviamente felice e entusiasta, ci ha raccontato alcune cose che Marta ha anticipato, tipo il suo correre senza computerino, e cosa che ha sperimentato per la prima volta a Livigno, nella tappa del Mottolino. Sì, gliel'hanno rubato lì e da allora non lo usa più. No, non è vero, ha detto che... L'ha spiegato perché, non me lo ricordo più, però ha detto che adesso preferisce ascoltare il suo corpo, almeno in queste occasioni, e direi che l'ha ascoltato bene, credo almeno. L'ha ascoltato molto Magari bene. L'ha ascoltato male, ha vinto lo stesso, però comunque è andata bene. È una cosa, è interessante e importante per un corridore della sua età, del 2001, il suo primo grande giro, che nella terza settimana del suo primo grande giro trovi le forze mentali e ancor prima fisiche per attaccare come ha fatto oggi ripetutamente e resistere poi al ritorno, per quanto non irresistibile, del gruppo Maglia Rosa. Si è sentito stamattina, ha detto, si è sentito bene stamattina ed è partito all'attacco. Interessante anche i suoi riferimenti di ispirazione da ragazzo. Ha citato due nomi, nello specifico Chris Froome e Michał Kwiatkowski, nello specifico nella Milano Sanremo vinta da Kwiatkowski. Sì, e Froome nel momento in cui correva a piedi sul Mont Ventoux. Cioè, l'ispirazione che più mi ha colpito è stata questa, sì. Ha citato questa più che suo padre, che invece è stato un corridore professionista, e dice che però l'ha sempre lasciato libero, e libero di fare quello che voleva, di godersi lo sport, e anche quando si sono parlati gli ha detto: ma tu fatti la tua vita, perché è inutile paragonare le nostre carriere, tanto sono lontane negli anni. E va bene, detto del buon Georg Steinhauser, diciamo anche qualcosa sull'altro fuggitivo protagonista di oggi, Emmanuel Gebrezabie della Lidl, che ho incontrato poco dopo la linea del traguardo. Lui è arrivato molto dopo, o un po' dopo, il vincitore di tappa, e gli ho chiesto un po' com'è andata questa tappa. Yeah, I try from the first climb, also in the downhill, and I go with the 10 almost riders. The peloton also catch in the long climb. Also, I try because nothing important to stay with the strong rider. So I try again, and the last climb catch me. I try all my best. I try everything to win the stage, but I'm really happy about this. Did you have the chance to talk to Georg during the breakaway with him? No, just riding. Just riding, keep the minute with the main group high possible, just like. Are you happy for him? Yeah, I'm really happy. Riding good, yeah. Grazie mille, bravo. Thank you. E allora Gebre ha detto: ho provato dalla prima salita, poi nella prima discesa, siamo andati via in 10, il gruppo ci ha ripresi sulla salita lunga, che credo fosse il passerolle, ci ho voluto provare e riprovare perché a rimanere coi più forti non si ottiene nulla di importante. E poi sull'ultima salita mi hanno ripreso, però ho fatto il meglio che potevo, tutto per provare a vincere la tappa, quindi sono molto felice. Gli ho chiesto: hai avuto occasione di scambiare delle parole con Georg durante la vostra fuga a due? Lui ha detto no, just riding, abbiamo soltanto pedalato, abbiamo cercato di mantenere il vantaggio sul gruppo più alto possibile. Gli ho chiesto se fosse felice per Steinhauser e lui ha detto sì, sono molto felice perché insieme abbiamo corso bene oggi. Quindi un'altra bella coppia di questo Giro d'Italia dopo quella memorabile di Alaphilippe e Maestri qualche giorno fa. Sì, anche molto bello all'arrivo il gesto di Steinhauser che ha aspettato Gebre per regalargli, come ha fatto Pogacar ieri con Pellizzari, gli ha regalato un alto forno oggi all'arrivo. Che aveva nel taschino posteriore. Sì. Va bene, ma allora per concludere questa parte dedicata ai fuggitivi, che spesso siamo felici di celebrare, abbiamo la celebrazione massima che giunge da il nostro sensei in collegamento satellitare e ci introduce, ci racconta la parola del giorno in giapponese. Ascoltiamolo. La parola del giorno. Kyono hitokoto. Bye bye bye. Ike ike ike. Beh, non avevo dubbi sul fatto che anche il nostro sensei facesse il tifo per i fuggitivi e li sostenesse lungo le strade, d'altronde è quello che fa anche Shimano normalmente in corsa, di sostenere i corridori, figuriamoci sui fuggitivi, quindi questa ce la possiamo fare, Michele, dai. Vai, vai, vai. Ike, ike, ike. Come sei facile, riuscito in una parola di tre lettere a sbagliare l'accento? Ma comunque è un buon inizio. Ti manca poco almeno su questa. Sono rimasto in tema perché forse da inizio della trasmissione abbiamo sbagliato a chiamarlo Brocon. Perché? Perché a quanto pare non è Brocon ma è Brocon. Io l'ho sempre chiamato Brocon. Al massimo tu l'hai chiamato Brocon. Forse sì, Leonardo. Tu come? È come Moscon. Dici? Eh sì. Non lo so, sono troppo giapponese ormai per il latino. Giusto. Sbagli gli accenti perché pensi sempre con l'accento giapponese. Può darsi. Magari è la stessa cosa che fa Pogacar, che ne sappiamo. No, non lo sappiamo se è la stessa cosa che fa Pogacar. L'abbiamo visto anche oggi in conferenza stampa, quindi direi di parlare un po' di lui e degli uomini di classifica in generale. Non è successo molto in classifica generale, abbiamo detto prima, forse soltanto che Aresman è di nuovo uscito dall'orbita, lotta per il podio. Thomas meglio di ieri, ma insomma piccoli smottamenti che non cambiano nulla. Ha messo a lavorare la squadra però Thomas, dai, io l'ho visto come un segnale forse anche di rivalsa dopo che ieri non era stato particolarmente brillante e così. Sì, no, quantomeno psicologica dal, cioè, punto di vista anche mentale. Ha messo a lavorare Arensman per, cioè Arensman ha lavorato per Thomas oggi, cosa che insomma ieri si sentiva quasi un po' l'aria di un possibile, se non sovvertimento delle gerarchie, quantomeno di un liberi tutti per Arensman. Sì, è vero. Infatti questo è stato forse l'elemento più sorprendente di questa tappa dal punto di vista della Ineos e degli uomini di classifica. C'è un equilibrio tra tutti gli avversari, se vogliamo chiamarli avversari di Pogacar o i contendenti al podio. Forse stiamo vedendo tra di loro un po' quell'equilibrio e quel controllo tattico che avremmo avuto al Giro se non ci fosse stato Pogacar in tutte le tappe, perché il livello è talmente simile le forze sono talmente vicine che si finisce poi in queste situazioni di controllo dove si attacca attacchini all'ultimo chilometro o negli ultimi chilometri disponibili che poi portano a pochi risultati. Però Pogacar c'è in questo Giro d'Italia e ha fatto la differenza anche oggi. Oggi io gli ho fatto una domanda e ho fatto una premessa dicendo scusa se questa domanda te l'hanno già fatta in tanti, e lui mi ha guardato come per dire tranquillo bro, non ti preoccupare, vai cioè non pensarci, fammela sta domanda, che è un atteggiamento nuovo rispetto all'inizio del giro, no? L'abbiamo detto nei giorni scorsi già, lui sta... Ma c'era proprio il bro nello sguardo. Il bro non c'era, mi è venuto in mente guardando Michele in questo momento, secondo me però l'ha pensato, la sua faccia diceva quello, vai tranquillo, fammi sta domanda. E la domanda era, non me la ricordo, che domanda gli avevo fatto, te la ricordi Michele? No, a malapena ricordo le mie. Io me la ricordo, secondo me era se voleva vincere 5 tappe in maglia rosa come Merckx. No, non gliel'hai fatta tu, ok, allora non diamo la risposta perché non gliel'hai fatta tu. Però invece io spero, ho fatto delle foto, cosa che non faccio quasi mai alla conferenza stampa, devo riguardarle, perché ho fatto la foto della faccia che ha fatto Tadej Pogacar quando Michele Pelacci gli ha fatto una domanda da pura Pelacci Analytics. Secondo me era molto sensata invece. Sì, secondo te sì, secondo tutti gli altri presenti Pogacar in primis un po' meno. No, non è vero. Io gli ho chiesto, gli ho messo davanti le statistiche intanto, per cui mi sono basato sulla carta canta, insomma, e... gli ho detto, ascolta Tadej, tu hai fatto 232 giorni di gara nella tua carriera e hai vinto 75 volte, praticamente un giorno ogni tre in cui agganci gli scarpini ai pedali, vinci, che è una statistica assurda. Ora io gli ho chiesto, se diciamo viene giù Dio e ti chiede, Tadej... No, Dio non l'hai fatto, non l'hai coinvolto, Dio non l'ho nella coinvolto. Tua domanda, dai, adesso non esageriamo. Insomma... ti assicurano che tu non vincerai mai più nessuna gara. Quindi Montepana è la tua ultima vittoria da professionista. Tu avresti comunque... Scusate, ascoltatori, nel frattempo fate la faccia... immaginate la faccia di Pogacar. Tu avresti comunque gioia dal tuo lavoro, trarresti comunque piacere da ciò che fai, dal correre in bicicletta, allenarti. E lui mi ha risposto... sì, effettivamente ieri ero stanco, si è messo a ridere, stavo pensando al ritiro, si è messo a ridere, però dice, ha detto anche una cosa seria secondo me, cioè che se il suo livello non fosse più quello attuale, quindi quello che riesce a mantenere, non solo vincere, ma anche lui diceva, se mi accorgo di non riuscire mai più a stare un gruppetto, io che sono uno scalatore, allora forse sì, mi darai ad altro, ma spera Pogacar di avere le gambe per un altro paio d'anni. Sì, è interessante, ho notato anch'io questo paio d'anni che si è dato ancora di tempo. Sono contento che gli abbia fatto adesso questa domanda, quando ormai è il suo fratello simpatico che viene alle conferenze stampa. Fatta 10 giorni fa sarebbe Beh, stato però interessante. Però 10 giorni fa, quando dicevamo gli fanno le solite domande, questa avrebbe veramente scombinato il mazzo. No, interessante il fatto dei 2 anni che si dà, perché secondo me Pogacar è entrato in una fase in cui si è posto degli obiettivi, no? Delle caselle da riempire in questo palmarès incredibile che sta mettendo insieme, e l'ha fatto capire ancora di più quanto stia programmando tutto quello che fa, quando ci ha detto praticamente come andranno le prossime tappe, sì, di questo Giro d'Italia. Cioè, non ha detto Roma non l'ha detto, tutte le altre sì, ha detto che domani ci sarà una volata, ha detto che a Sappada arriverà una fuga perché è una medium stage, buona per la fuga, e che evidentemente la tappa del Monte Grappa la vince lui, cioè sì, l'ha praticamente dichiarato esplicitamente. Salita iconica, un sacco di tifosi sloveni, ha detto vinco io, poi non ha detto vinco io, ma ha detto vinco io. E ha spiegato anche che oggi era felice, quindi in un certo senso ci ha detto che ha dato il via libera alla vittoria di Steinhauser, lui ha detto perché era già nella fuga iniziale, quindi ha voluto specificare la sua scelta, diciamo così, di far arrivare la fuga come un premio per un corridore che era già attivo dall'inizio in questa tappa. Non l'ha detta in questi termini, io l'ho letta come un nulla osta dato da un Pogacar sempre più padrone, non solo della maglia rosa, ma anche, come dire, della leadership, della autorità che sta assumendo giorno dopo giorno nella guida di questo Giro d'Italia. Il giro è mio e lo gestisco io. Ha detto praticamente questo tra le righe. Non ha parlato invece oggi, caso raro, ma non ha parlato di alimentazione nella sua conferenza stampa, non mi risulta almeno, ma so che la nostra eternamente inviata, anche quando non è qui presente, Marta Bacigalupo, ha dedicato il suo Pogaciario di oggi proprio a questo argomento. Non importa dove io sia, ma come un'entità diffusa, gassosa, non si sa, liquida, la mia intelligence non molla. Ormai ho una rete di informatori che è meglio dei servizi segreti e anche in smart working ho uno scoop pazzesco per voi. Dopo il recente scoop dei ciuffetti, questo è, direi, quasi lo batte. Vi ricordate che recentemente, mi pare alla tappa vinta da Ganna, Taddei mangiava il riso con una salsa misteriosa in conferenza stampa, sono uscite diverse foto, anche noi ne abbiamo parlato, cos'è, cosa non è? Ebbene, io lo so, io ho lo scoop, lo so da fonti dirette, che questa volta vi rivelo per rivendicare l'attendibilità. Liuqi, il suo addetto stampa, interrogato, mi ha confessato che salsa era. Pare essere una sweet chili sauce, quindi una salsa al peperoncino dolce. Potrebbe essere questa la sua pozione di Asterix? Potrebbe essere questo il suo segreto? Non lo sappiamo, ma sappiamo che comunque è una buona forchetta. Ce l'aveva già raccontato altre fonti. Sappiamo che ama la carbonara, che la ordina al ristorante, ma in un'intervista anche Urska ha raccontato che addirittura la cucina. E poi addirittura è uscita un'altra intervista per Marca, testata che ovviamente, vista la mia recente laurea in spagnolo applicato, io leggo abitualmente, e lì ha confessato che addirittura durante il giro si è concesso degli sfizi, cioè dice che per la maggior parte del tempo comunque ha mangiato cibo sano, perché il loro nutrizionista Gorka, non Izaguirre direi, non gli ha permesso troppi sgarri, ma qualcuno se lo sono concesso lungo il percorso, e spera e non vede l'ora di mangiare una buona pizza a Roma. Quindi per aiutare il mercato, sappiamo che adesso si impenneranno le vendite delle sweet chili sauce tra i ciclisti e che tutti i pizzaioli di Roma saranno pronti a sfornare per Taddeo. Per il Pogacciario è tutto oggi. Grazie ai laboratori tecnologici della Fufas Corp, oggi hai la possibilità di ricevere a casa tua una nuova tecnologia all'avanguardia. Un assistente virtuale di ultima generazione, in grado di rispondere alle tue più profonde esigenze. I nostri scienziati hanno creato Giri. Ehi Giri, qual è la cima Coppi del Giro di quest'anno? In che senso? Qual è la vetta più alta del Giro di quest'anno? Non ho capito. È la vetta più alta toccata dal Giro. E qual è? E io non lo so, te lo stavo chiedendo a te. A me? Vabbè dai, lasciamo perdere. Con Giri finalmente non avrai a disposizione più informazioni. Con Giri non avrai risposte alle tue domande. Ma con Giri ti sentirai più intelligente. Più intelligente di lui. Di Giri. Giri, cosa danno al cinema oggi pomeriggio? Pomeriggio. Giri, cosa danno al cinema? Cinema. Mi stai facendo il verso? Il verso. Ma cosa? Ma cosa? Vabbè, dai, lasciamo perdere. Giri, benvenuti nel futuro. Benvenuti nella stupidità artificiale. Bello, bello, mi piace sempre di più, è sempre più sul pezzo, oggi giornata della Cima Coppi, Giri ci risponde sulla Cima Coppi, ma mi piace anche questa sua nuova versione pappagallo, da delle certezze. Io mi sento molto più intelligente, grazie a Giri, che interpello per esempio quando devo scoprire posti nuovi, scoprire la strada del giorno, andare dalla partenza all'arrivo. Anziché guardare Garibaldi, tu chiedi a Giri. È una soluzione. Comunque non ci siamo ancora persi, nonostante questo. No, non ci siamo persi, ma per ci siamo ora. Divisi. Ci siamo, divisi. Oggi sì. Abbiamo fatto. Sì, perché abbiamo diversi. Visto ieri con Marta. Un po' sono un po' i giorni del dividersi. Per cui ci siamo divisi anche noi quest'oggi. Io ho lasciato i miei due compagni di viaggio nel sempre più sporco furgone di Alvento. E sono salito a bordo dell'ammiraglia Shimano, come è già successo altre volte. Vi propongo, come altre volte, un breve estratto, un breve montaggio di voci interne all'ammiraglia Shimano nella giornata di oggi, in una giornata molto particolare, perché noi abbiamo seguito la corsa, anzi abbiamo anticipato la corsa, e cosa molto rara, come sentirete anche voi, non abbiamo mai visto un ciclista nel corso di tutta la giornata. Questo perché è vero che la fuga è arrivata, scusate se torno un attimo all'attualità di corsa, ma la fuga di fatto fino al finale di corsa non è mai partita. E quindi anche per le auto dei meccanici, che in genere si fanno un mazzo così a muoversi tra una fuga e l'altra, quando gli viene dato spazio perché c'è il distacco sufficiente, quest'oggi non c'è mai stato il distacco sufficiente, e quindi abbiamo ammirato il percorso con delle viste delle Dolomiti eccezionali, dei tifosi eccezionali con costumi, ho visto i Blues Brothers, ho visto uno vestito da suora, ho visto uno che ha bevuto talmente tanto che aveva perso la relazione con la gravità. Hai visto il panda? Il panda non l'ho visto. C'era un bel panda notevole. Qualcosa che ho visto, ma soprattutto quello che ho sentito, ve lo faccio sentire. Nick, dimmi cosa c'è? Gnocchi in crema di speck o risotto ai funghi? Di secondo c'è tagliata di manzo o orata su misticanza? Allora io riso e pesce. Partenza di tappa, non ho capito se siamo già al chilometro zero o meno. Già passato. Che prende? Spaghetti alla carbonara e frittura di mare. Spaghetti alla carbonara. Diego, tu prendi gli gnocchi? Sono tagliata. Sono tagliata. Sono in auto con Sergio e Diego. Ciao Sergio, ciao Diego. Ciao, ciao, ciao. E la cosa più importante di tappa l'abbiamo smarcata, ovvero il menù della cena. Della cena, bravissimo. Siamo su questi due e siamo praticamente, ne copriamo quattro nel giro di 50 metri. Sono dietro il gruppo Maiarola che sono... Si accavallano le radio, mille scatti, mille gruppetti, noi Sergio andiamo tranquilli invece. Per ora andiamo tranquilli, sì. Aspettiamo che la fuga prenda piede, poi ci infiliamo dietro. Ci siamo potuti fare anche la discesa, rilassante. Sì, rilassante, bravo. Ogni tanto. Al chilometro 27 teniamo il gruppo Magliarosa. Panorama pazzesco, cosa migliore vista per ora? Un signore vestito da orso ma con una maschera di legno. Cosa succede Sergio? Non ci fanno andare dietro ai fuggitivi? Cosa è successo? No, non è che non ci fanno andare dietro, il tempo sta diminuendo per cui è probabile che il gruppo vada un po' a chiudere il gap con i fuggitivi. Quindi è meglio stare davanti piuttosto che rischiare di essere poi con due macchine in mezzo nel caso poi si dovesse saltare in discesa. Però quindi diciamolo come commento tecnico, cioè la Y che controlla la corsa non è un problema solo per i fuggitivi ma anche per l'auto 1 di Shimano che viene stritolata dal controllo di corsa della Y, non si sa, non si auto riesce 2, a inserire. Auto 2. Auto 2, scusa. Sì, proprio. Per cui aspettiamo. Per cui aspettiamo, ascolti alla radio. Bravo. Tra un po' ci fermiamo a pisciare. Bravo. Sicurezza. Ma dimmi un'altra cosa, già che aspettiamo di andare in ufficio, diciamo. Ieri c'era quella cosa delle... che poi chiaramente non si è fatta, però dal comunicato iniziale c'era quell'ipotesi di distribuzione delle mantelline neutrali. Mm, sì. Sarebbe spettato a voi, o no? No. No. No. Ok. No, perché le mantelline sono state riconsegnate poi alla direzione gara e... sinceramente non so dove le abbiano collocate poi. Quindi non è che voi avete portato anche delle mantelline quest'anno? Avevamo, oltre... no, fino all'altro ieri le avevamo noi in dotazione. La terza macchina aveva in dotazione le mantelline. Vostre, quei mantelline Shimano? No, c'era. Mantelline no. Delle squadre. Ah, ogni squadra ha dato un solo di mantelline. Sta arrivando. Radio Corsa ha appena chiamato la Sudal dicendo esplicitamente rifornimento Cibarie. No, il mangime è quello dei pappagallini. Almeno ci si diverte. Vabbè ragazzi, in conclusione. Non abbiamo visto neanche un ciclista oggi, tutto il giorno. Conclusione, neanche un ciclista abbiamo visto. Non è una cosa facile. No, il Giro d'Italia in particolare. Ma per voi che insomma siete qua, è meglio una giornata così relax, senza lavoro da fare? extra o è un po' pallosa? Sicuramente no, è un po' pallosa, dai. Meglio essere attivi che così passivi, no. Però fa parte della corsa. Fa parte della corsa. Non sarà la prima volta che vi succede? No, assolutamente. No, non è la prima volta, per cui... Dai, si arriva a sera un po' meno stanchi stasera. Bravo. Uguale. No, sì, meno stanchi. Sì, un po' meno stanchi, meno stressati. Ci si beve qualcosa in più stasera, allora. Bravo. Evviva, andiamo al traguardo. Ok. Olè. Buono. Ah, esci da lì? Bravo. Top. Mentre accadeva tutto questo, io e Michele eravamo in auto insieme e a un certo punto siamo stati attratti da una strana parola scritta su un edificio e ci siamo fermati, ma vi facciamo ascoltare tutto e è una cosa veramente sorprendente e buona. Ecco qua. Cos'è che c'è scritto là? Che cos'è sta cosa? Ah, parampampoli. Lo conosci? Che vuol dire? Conosco una parola grossa, ne ho già sentito parlare. Spegni Luca Pedalini che ci fermiamo. Vabbè, fermiamoci, supera. Guarda che c'è il bus della Movistar, adesso lo superiamo e ci fermiamo. Capiamo che cos'è, sono curioso. Sono Davy Sanderle, sono uno della famiglia del Rifugio Crucolo, dove abbiamo inventato, mio nonno ha inventato il parampampoli, liquore che è a base di caffè, zucchero, vino, miele. Caffè, mi trovi, poi sono un appassionato di caffè. Eccetera, eccetera, eccetera, però. Allora, cominciamo dalla parola, perché a me mi è incuriosito subito questo suono. Perché, cosa significa, è appunto un suono o ha un significato particolare, parampampoli? Parampampoli è una parola goliardica che non ha un senso. Praticamente è nata quando si è incendiato il prodotto e ha fatto un barabam e da lì è nato parampampoli. In che senso si è incendiato il prodotto? Perché il prodotto che va servito alla fiamma e si è incendiato accidentalmente, perché per errore mio nonno ha mescolato vari ingredienti e da lì è nato questo famoso parampampoli, che è la bandiera del nostro ristorante Rifugio Crucolo e che è adatto per creare momenti di convivialità e di festa. Ma hanno preso fuoco per autocombustione o è stato un incendio fortuito? Doloso. Un incendio fortuito per autocombustione, diciamo. Nel senso che una volta all'osteria si usava bere o il caffè col vino o il caffè con la grappa. Un giorno per errore mio nonno ha mescolato i due ingredienti, l'ha dimenticati sul focolare e da lì è iniziato a bollire e una scintilla l'ha incendiato. E poi l'ha assaggiato però, per capire che poteva avere... Esatto, non una volta solo, un bel po' di volte, perché era in compagnia degli amici, finché ha trovato il giusto equilibrio di tutti gli ingredienti. E ha cominciato a commercializzarlo. Commercializzarlo, sì, sono più di 60 anni che commercializziamo questo prodotto a marchio registrato e crea sempre allegria in tutte le occasioni. Sulla confezione ho letto il liquore che accende la voglia, giusto? Ma la voglia di cosa nello specifico? Soggettiva la voglia, ognuno la interpreta come vuole. Anche di andare in bicicletta magari. Soprattutto quella, perché è una bevanda energetica. Ah, è energetica, giustamente, energetica. Però forse è meglio berla dopo la bici che prima. È consigliato, specialmente per gli atleti magari, un momento di relax prima della corsa del giorno dopo. Prima della corsa del giorno dopo, ci sta. In molti racconti del ciclismo eroico, anni 10, anni 20, si racconta che nelle borracce avessero whisky, avessero rum. Secondo te parampampoli nelle borracce moderne? No. Si potrebbe fare, un casino farlo incendiare. Ma allora adesso Davis ci mostri un attimo il luogo in cui viene proprio prodotto questo parampampoli e com'è il procedimento in poche parole? Poche parole, bisogna preparare il caffè e poi vanno mescolati gli altri ingredienti che sono lo zucchero, il vino, l'alcol, eccetera, eccetera, eccetera. Eccetera significa qualcosa di segreto? Sì. Viene fatto a porte chiuse. Ok, quindi ora siamo quasi in un posto off limits. Ma no, dai, diciamo finché non ci sono tutti gli ingredienti è aperto. Poi dopo si chiude, è il momento giusto. Quindi è una ricetta che custodite solo voi, nessun altro ha in tutto il mondo? No, solo noi ce l'abbiamo come famiglia. Allora, ci siamo trasferiti nello shop, nel negozio, come lo chiamate questo? Nel negozio, e Davis ha preparato 3 tazzine speciali per noi, mi diceva che sono più spesse sì. di ceramica, no? Cioè, per mantenere più a lungo il calore. Esatto. Parampampoli, ha in mano una bottiglia e ha messo su un pentolino, raccontaci. Parampampoli è già pronto in bottiglia. Non bisogna aggiungere niente, basta scuoterla, shakerarla sotto sopra e versare la quantità che si adopera in un tegamino. Più fino è, prima va ebollizione, più buono diventa. Quindi deve bollire? Sì, non lasciar bollire, ma appena inizia a bollire. Un paio di minuti che bolla. E poi adesso hai in mano già l'accendino. Esatto. Gli diamo fuoco. C'è scritto lo accendiamo sul manifesto pubblicitario. Esatto. Adesso... come chi vuole essere milionario. Esatto. Inizia a bollire. Ecco, questo è il suono della fiamma, non so se si sente. Continua a sfiammeggiare anche nella tazzina. Sì. Una volta che si è spenta in tazza, il prodotto è pronto da bere. Quindi si attende che la fiamma si spenga e poi si beve. Poi si gusta. Il profumo già è buonissimo. Noi adesso lo assaggiamo. Quando la fiamma si spegne. Si è spenta. Direi che possiamo assaggiarlo. Possiamo assaggiarlo, facciamo un brindisi. Al Giro d'Italia, Parampampoli. Giro d'Italia, Parampampoli, allo sport. E a noi. A noi. Ma super buono. Buono. Super super buono. Ma io, cioè, buonissimo. Il caffè a me è la tachicardia. Qua ce n'è. Sì, è poco. Fantastico. Sì. Dopo quando ne bevi 10 non la senti più. Però ragazzi, cioè, per una volta che non ci sono andate a bere. Lo scopo della mia vita. Peraltro, così, stupiti noi dalla bontà di questo... Infierisci. Mi avete portato un assaggio almeno o no? Assolutamente sì. Stasera potremmo, così, cucinare un buon parampampoli. Sì, per il quale ringraziamo Davis. E io devo anche ringraziare la Proloco di Pieve Tesino, perché mentre prima di ripartire dal passo Proconveto vado a fare pipì, in realtà mi sono fermato al gazebo della Proloco di Pieve Tesino che mi ha offerto un'altra tazza di parampampoli. E quindi questo era il motivo del mio ritardo oggi dopo la tappa. Allora io ringrazio anche il negozio delle informazioni turistiche di Selva di Val Gardena, perché io invece lì ho usato il bagno, grazie, è sempre utile. Non esisteva un bar a Selva di Val Gardena questa mattina. Facciamo un rapidissimo power ranking a cura di Leonardo Piccione. È meglio. Grandi Power Rangers. È meglio, diciamo, alcolici a gusto caffè, a contenuto caffè. È meglio la moretta di Fano o il parampampoli del Tesino? Adesso scontentiamo qualcuno. Uno alla mattina e uno alla sera. Facciamo così. Dai, il Borghetti? I Borghetti non sono un grande fan, devo dire. Devo essere sincero, deluderò qualcun altro oggi. A proposito di mattina, tu hai incontrato... molto bello questo gancio. Direi che passiamo alla chiacchierata del giorno, che è stata, dopo 2 brevi chiacchierate fatte all'arrivo, oggi ne abbiamo fatta una più lunga e compendiosa, con uno dei grandi protagonisti di questo Giro d'Italia, sulla strada e fuori dal punto di vista emotivo, Mirko Maestri della Polti Cometa, che ho incontrato questa mattina ai bus prima della partenza a Selva di Val Gardena. Allora Mirko Maestri, buongiorno, finalmente riusciamo a trovarti con calma, perché sennò, come al solito, ma in questo giro più del solito, ti dai sempre da fare, fuggi sempre. Sì, dai, cerchiamo sempre di farci vedere anche per raccogliere qualche occasione buona. E peccato insomma non aver ancora raccolto un bel risultato di spessore, però insomma il giro manca poco ma non è finito. Senti, ma si può dire, o è un'esagerazione, che sono i giorni sportivamente migliori o più pieni della tua carriera questi qua al giro? Sì, diciamo che sto bene, ma quest'anno con la squadra abbiamo deciso di prepararlo il giro anche con l'altura e allenamenti più mirati e, insomma, poi i risultati si vedono, no? Quindi no, sono contento e sì, posso anche dire che molto probabilmente l'apice è un po' più alto della mia carriera e sono contento, dai. Mi dici, immagino sarei stato sommerso di reazioni e messaggi in questi giorni, anche internazionali. Mi dici il messaggio più strano o piacevole che hai ricevuto in questi giorni e da chi? No, beh, quello che mi ha fatto particolarmente piacere è tutti i tifosi francesi che in tantissimi mi hanno scritto dicendomi che ora la Francia mi ama e che mi aspetta per un Tour de France, sarà dura, però no, questo mi ha colpito molto, insomma, vedere che lo sport comunque unisce le persone anche di varie nazionalità e la cosa più bella che rimane è che il cuore alla fine è quello che ne fa da padrone. Come ti spieghi questa sintonia così naturale con Alaphilippe, che nessuno si aspettava? Per me è una delle cose più sorprendenti che ho visto in questi anni al Giro. Ma non lo so, forse perché io, per quanto mi riguarda, ho cercato di godermi questa magnifica fuga, nonostante sia stata durissima. E poi ognuno faceva il suo nelle zone più congeniali, no? Lui in salita, io in pianura. E senza tanto parlare, come ho detto anche in un'altra intervista, sembrava corressimo insieme da tanti anni, no? Ed è bello così, forse tante volte è proprio nel caso che si trovano le accoppiate più belle. Senti, hai detto anche in un'altra intervista che Alaphilippe e Sagan erano i tuoi idoli, però loro sono tuoi coetanei. Che significa avere per idolo uno della tua età o più piccolo? Alaphilippe è anche più piccolo di te. Sì, ma è il modo di correre, cioè alla fine non per forza gli idoli devono essere del passato, no? Io li considero idoli perché corrono nel mio stesso periodo storico, no? Quindi so cosa vuol dire correre in questa epoca. Lo stesso Petacchi, piuttosto che altri corridori, sono stati dei miei idoli, anche Valverde, però ho fatto in tempo che corro con Valverde, però non ho vissuto appieno, no? Il periodo storico uguale, invece con loro sono passato, che loro, vabbè, magari era ancora già da un paio d'anni che erano già prof, ma comunque abbiamo corso lo stesso periodo, quindi le stesse corse, e quindi so che la fatica che si fa in questo periodo. Ma invece quando eri piccolo, chi erano i tuoi idoli? Se ne avevi di ciclistici? Sì, beh, ma Bennati, Petacchi, diciamo che io ero un po' un mezzo velocistino, no, da giovane, quindi mi ispiravo più ai velocisti, Cipollini, Petacchi, lo stesso Bennati, quando ero un po' più grandino juniores, quindi sono stati quelli. Pantani, che è un po' l'idolo di tutti noi italiani, non ho fatto in tempo a godermelo appieno perché non venivo da una famiglia che conosceva bene il ciclismo. Mi sono avvicinato per problemi di peso, diciamo, al ciclismo, quindi l'ho iniziato proprio per calare, perché dopo della dietologa a 9 anni, quindi ti posso immaginare, e quindi non ho vissuto al pieno questa cosa, ma comunque diciamo che sono stati questi i miei idoli un po' più del passato. Un'ultima cosa, 32 anni, il giro, diciamo, della consacrazione da un certo punto di vista. Cosa diresti oggi al Mirko Paperino di qualche anno fa, no? Un po', ecco, che comincia il ciclismo non per passione ma per necessità quasi. Che gli diresti oggi? Di credere in quello che vuole fare, perché alla fine io mi sono appassionato perché fisicamente sono cambiato e ho cominciato a apprezzarmi anch'io, no? E quindi gli dico di insistere. La passione è arrivata in un secondo momento, naturalmente, perché non conoscendo il ciclismo non potevo averla, e quindi tutto è diventato una scala di emozioni, di sogni, e quello che dico sempre io: insisti e resisti che raggiunge conquisti. Questo lo dici a chi si sente in generale un po' un paperino nella vita. Sì, esatto, alla fine quello deve essere il motto un po' anche per tutti, però a chi, diciamo, non ha mai le cose troppo facili, non troppo facili perché nessuno ha le cose facili, però chi deve insistere un po' di più, gli consiglio questo motto di ripeterselo nella testa. Grazie mille. Grazie, grazie a voi. E allora ringraziamo anche da qui Mirko Maestri, perché ci ha raccontato anche che la passione non sempre nasce, sgorga spontanea, no? Va anche, la passione viene allenata, può essere allenata come nel suo caso, e soprattutto si può allenare l'amore per se stessi, che è una cosa molto importante che ci ha detto con la sua semplicità e la sua onestà Mirko Maestri in questa intervista. Bravo Mirko Maestri, ottima riflessione. Un altro corridore con cui abbiamo condiviso alcune riflessioni, alcune chiacchiere, non risale a questa mattina ma risale al giorno di riposo, è un'intervista che ha fatto Marta e la facciamo introdurre dalla sua voce. pare che il termine gregario di lusso sia stato coniato per lui a questo punto, che è un campione che abbiamo visto vincere, che insomma uno scalatore pazzesco, ma che in questo giro è il gregario prediletto, è la guardia, la guida anche in qualche modo di Tadej Pogacar. Si tratta ovviamente di Rafa Almeida, che ieri Tadej ha quasi, diciamo, a cui ieri Tadej ha proposto di andare a prendersi la tappa, ma che lui non ha voluto, e che oggi, quando c'è stata l'azione, l'allungo finale, diciamo, abbiamo subito visto cercare di avvicinarsi al suo capitano, anche se era un attimo più indietro, per guidarlo, per stargli vicino. Quindi questa dedizione incredibile, questo rapporto di grande sintonia di cui abbiamo parlato spesso, meritava una chiacchierata in più. Quindi ascoltiamo la voce di Rafa Almeida. Devo dirvi, un uomo dallo sguardo magnetico, estremamente affascinante, con questa voce italiana posata e flemmatica. E vi lascio a sentire cosa dice appunto della sua partecipazione a questo progetto di vittoria pazzesca. Sai l'italiano perché hai vissuto parecchio, no? Un po' in Italia? Sì, ho fatto dilettante in Italia 3 anni e poi sono passato con Saxo Bank, allora per quello parlo bene, diciamo, bene italiano, sì. Però mi sempre sono venuto in Livigno per allenarsi, in Toscana, sempre sono stato quasi in Italia, e so, anche i primi anni di professionista stavo in Italia, allora per questo parlo, certo, meglio italiano. Senti, tu hai un sacco di vittorie tue e adesso stai correndo invece per una vittoria di squadra. Come cambia il tuo modo di lavorare? Ti dà la stessa gioia? No, veramente adesso sì, anche non sono più giovane, però sempre sto bene fisicamente anche, però mi piace correre per uno come Tadej Pogacar, un fenomeno, e diciamo che un ragazzo che veramente va forte con la squadra UAE Emirates, e questo Giro d'Italia facciamo perfetto per ora, speriamo che a fine a Roma arriviamo bene, e anche diciamo che già vinto con lui a Tour 21, speriamo che vinciamo anche Giro. Senti, voi due avete un rapporto speciale, io ti ho visto arrivare dopo Prati di Tivo con un sorriso gigante, e anche Tadej in conferenza stampa parla sempre, cioè dice che ti segue molto, che avete una bella sì, chimica. No, tanti, tanti ritiri insieme, tante corse, un ragazzo veramente, no, per me è un ragazzo normale, però anche in corsa si capiamo veramente bene senza problemi, perché quello che chiede lo facciamo, ogni tanto sbagliamo io, anche lui, siamo solo persone, però invece per me è un fenomeno in bici, impressionante. Senti, ma tu hai la sensazione di stare facendo qualcosa di grande, di pazzesco con questa squadra? No, sto contento, sto veramente bene con UAE Emirates e anche con quella squadra che abbiamo qua, e con tanti giovani, anche un corridore, io sono già un corridore con esperienza, e ho fatto classifica generale a Giro, però qua cambia un'altra situazione, lavoro uno dei migliori del mondo e sono molto contento. Non ti sei ancora stancato di correre? No, no. Che cosa vuoi fare da grande poi? Speriamo che vinciamo Giro Italia e un po' recuperare un'altra parte di stagione, cioè abbiamo ancora tante corse da fare, però mi piace correre in bici, mio lavoro, però un lavoro che mi piace, allora quando ti piace un lavoro meglio fare una fortuna, sì. Senti, tu invece corridori giovani della Polonia come te, come li vedi? Cioè, tipo, conosci Aniol Koski? Sì, bravo ragazzo, forte, veloce, però speriamo che adesso quelli juniores ci abbiamo molto buoni, speriamo che fanno crescere molto bene, per arrivare professionisti, più difficile arrivare professionisti, perché da giovani fanno tanti chilometri, già junior insomma come quasi come professionisti. Allora speriamo che arriva nuova generazione dopo noi. Quando non stai correndo nella stagione, cosa ti piace fare? Dipende, io mi piace stare a casa, la famiglia, guardare il giardino. Ah. E quello migliore, stare con bimbi e con la moglie. Che piante hai in giardino? Ce l'ho tanto, adesso ho fatto un nuovo giardino, sono molto contento. Ogni tanto ho fatto con trattore, però no, mi piace veramente. E anche lo sai, quando stai a casa così, quando guardi il sole, tranquillo, recuperando. Grazie, buon appetito. Grazie. Ha messo un nomettino lì a un certo punto parlando di polacchi, Marta, non so se l'ha fatto per farci un favore, ma comunque ha buttato lì uno che secondo me potrebbe essere anche un protagonista della tappa di domani. Non so cosa ha visto nella sua sfera di cristallo il nostro pozzo di scienza parmense Florindo Miguel Pelacci. Intanto devo dire una cosa veramente scientifica che abbiamo scoperto. Veramente. Veramente. Astrofisica. Sì, sì. No. Questa volta è quasi un teorema matematico, pensa Filippo, perché con Leonardo l'altro giorno pensavamo a questo fatto. Quando una località di partenza ha una quota maggiore della località d'arrivo, è sicuro, in tutti i casi, il dislivello negativo è maggiore a quello positivo dell'etappa. Per cui domani si va letteralmente in discesa. Tutto questo preambolo per dire che domani si scende, si va in pianura, ma va bene, ci sta. Diamo anche. Vorrei che a questo punto tu mi dicessi salita e discesa in giapponese, per favore. Non posso assolutamente ricordarlo, ma passiamo subito alla fiera, sì, di meglio, Primiero. Sì. Fiera di Primiero, Padova, 178 km, un solo GPM. Nella primissima fase di corsa a Lamon, noto località insomma per il fagiolo, omonima al Pistard. Esatto, noto anche Pistard, volevo dire, ma l'hai detto già tu, non devo aggiungere nulla. Uno sprint intermedio a Valdobbiadene, l'intergiro a Villorba, un altro sprint intermedio a Martellago, nomi comunque notevoli in questa parte del Veneto, molto pianeggiante. Abbiamo Zerobranco, Stra, Martellago. L'ultimo posto qui che noto sulla cartina si chiama Voltabarozzo, insomma carini. Si arriva poi in Prato della Valle, sarà volata 99 su 100? Secondo me no, però. Perché devi sapere, Leonardo, tu ci hai vissuto a Padova, quindi lo saprai meglio di me, che ci sono 88 statue. Certo. In Prato della Valle. Una si chiama, e qui lancio subito il mio pronostico, Sicco Polenton, personaggio raffigurato da questa statua, non so chi sia, ma per far rima io dico che domani vince Andrea Pietrobon. Quindi tu pronostichi l'arrivo della fuga, una improbabilissima fuga domani a Padova. Mi piace questo pronostico. Prato della Valle, sede della prima corsa ciclistica italiana, ci teniamo a ricordarlo, e anche a un passo dal velodromo, forse quello più in centro d'Italia, che è il Monti. Abbiamo sempre ricordato come questo Giro d'Italia sia quasi un giro dei velodromi italiani, non così tanto perché ce ne sono molti di più, ma anche domani si arriva nei pressi di un velodromo, quindi vince un velocista. Credo di averlo detto già nella puntata 0 di questo podcast, che domani vince Alberto Dainese. Sì, è vero, confermo che era stato detto. Arriviamo con un giorno di ritardo a Padova, perché il mercoledì a Padova è il giorno degli studenti, si va in piazza, si esce il mercoledì e si beve lo spritz. Perché notoriamente, solo mercoledì? Perché il mercoledì a Padova è la sera degli studenti che escono e si divertono. Per i velocisti del giro sarà giovedì e io credo che arriverà una volata domani. Jonathan Milan è troppo facile. Diciamo altri due nomi, uno citato ieri anche da Elia Viviani, quindi Enrico Zanoncello, oppure Giovanni Lonardi della Polti. Diciamo questi due nomi outsider, autarchici, pronostici sovranisti oggi a Geronimo. Però sì, effettivamente ci sono dei velocisti italiani a questo giro che possono farsi vedere, si sono già fatti vedere. Vedremo, come direbbe Gianni Bugno e come direi io per usare il verbo vedere più volte possibile all'interno della stessa frase. Vedremo domani a Padova, vedremo invece altre cose sulla storia di questo Giro d'Italia e sulle storie di questo Giro d'Italia sui nostri canali social, quelli di Alvento e quelli di Bidon e quelli di Shimano, che tengono vivo anche il contest sulla parola del giorno in giapponese. Leggerete la newsletter domani mattina, che vi arriverà prestissimo grazie a queste sveglie sempre più estreme che il nostro Ale Ottieri sta mettendo, e gli diamo un grande abbraccio. Il nostro Ale Ottieri. Aleotti. Ale Autieri. Ah, avevo capito, il nostro Aleotti. No? Ma è un po' nostro anche Aleotti, sono nostri tutti, basta che ne facciamo il nome, soprattutto è nostro, più di chiunque altro, Georg Steinhauser, ricordiamolo. Sì, certo. Ci risentiamo sui vari gruppi. Un attimo, domani mi è arrivata questa notifica che domani, in corrispondenza della tappa padovana, non so qual è il collegamento, Luca Pedalini, il famoso cantautore ciclistico, dropperà, come dicono i giovani, il suo nuovo album, EP. Plana l'album. Luca mi ha detto che è una mina pazzesca sto nuovo album. Luca chi? Luca Pedalini. E tu che contatti hai con lui? Non... Diciamo Eterei. Ma. Eterni. Vabbè. Adesso giovani si sentono. Sì, domani c'è un po' il Pedalini Day. Domani anche mi segnala il nostro amatissimo Gino Cervi. Inizia questo piccolissimo tour di Paul Fournel, autore francese che ha pubblicato un libro tradotto in italiano lo scorso anno per la Collana di Alvento. Si chiama Io la mia bicicletta. Un libro molto bello di amore per il ciclismo. Domani, giovedì 23, sarà alloggiato di Palazzo Farnese a Piacenza. Venerdì 24 alla Ditta Artigianale di Firenze e sabato 25 all'Eroica Montalcino Festival di Montalcino, per cui andateci perché è l'occasione per sentire la presentazione di un bel libro e anche per sentire dal vivo la voce barricata di Gino Cervi, che è ancora meglio di quando l'ascoltate nel podcast. Direi che abbiamo concluso. Hai altro da dire, Michele? No, ci vediamo domani a Padova. Che bello, ciao ciao.